YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. E rieccoci con la nostra seconda puntata della terza stagione di RadioTube. Com'è andata questa settimana, Daniele? La chiedi perché sono stato un po' malato. Quello che resta di Daniele Bellasio. Ma com'è che dopo i 40 anni, una volta al mese, 4 giorni a letto non me li toglie nessuno? Non lo so, te lo dirò quando li avrò compiuti. Esatto, quando li avrei compiuti me lo dirai. Invece le 2 ore precedenti come sono andate? Bene, sì. Noi siamo ancora giovani, quindi abbiamo ancora... Sì, tu e tutte le tue amiche. Sì, abbiamo ancora le forze. Allora voi potete scriverci. E sai che tra l'altro ci ha scritto uno dell'audit. Ti ricordi che la scorsa puntata avevamo detto ah, ma chissà se esistono davvero i signori che hanno il modem, quella roba strana, che poi adesso è tutto digitale, devono avere ancora la macchinetta a rispondere al telefono. Non lo so, io avevo una zia che faceva parte di una famiglia Auditel, ma moltissimi anni fa aveva la scatoletta che doveva schiacciare. Sì, ma sto parlando veramente di tantissimi anni fa. No, siamo brianzoli, siamo precisi, non variamo mai. Invece un mio amico, quando veniva telefonato, si può dire, veniva telefonato diceva sempre Video Music, anche se stava guardando qualcos'altro. Ah, vedi. Comunque, pensavo negli exit poll delle elezioni, la prima volta che me lo chiedessero io direi un'altra cosa per sballare. No, avrei sempre detto lo stesso, però lo possiamo dire perché siamo in par condicio. Non lo so, siamo sempre in par condicio. Non siamo. Allora, gli account, ecco, Daniele. Et Marta Cagnola, et di Bellasio, potete usare ovviamente l'hashtag cancelletto RadioTube. Ah, strano che non abbiamo ancora visto Crozza. Dai, a me piace tanto. Strano Crozza. Che. No, perché abbiamo già fatto una puntata nella prima, però non c'era ancora di martedì. Abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo parlato dei talk show, abbiamo parlato di Ballarò, abbiamo parlato di Porta a Porta. Arriva Crozza, mi concedo di mettere un po' di Crozza, si arrabbia subito. Perché non è che hai un po' di gelosia maschile nei confronti in fin dei conti, effetti abbiamo la stessa pettinatura, ormai in fin dei conti non ha più capelli di te, di solito sei cattivo con quelli che hanno più capelli. Geloso lo stesso di Crozza. Vabbè, mandiamo questo video. Allora, Crozza è tornato. Questa settimana sono successe tante cose. In realtà noi già eravamo sul pezzo sul tennis, di cui parleremo molto in questa puntata, la scorsa settimana, perché è stato veramente qualcosa di molto importante. Sapevamo che avrebbe vinto un'italiana, quindi che lì non era difficile. Siamo saliti. però la visione di Crozza è molto politica. Sai perché? No. Beh, ascoltiamola allora, Maurizio Crozza. Giova, non è fantastica la riforma della buona scuola di Renzi? Finalmente anche l'ultimo degli insegnanti di Crotone al suo posto fisso. Ce l'ha Bolzano, però ce l'ha. Deve solo... No, ma è facile. Deve solo svegliarsi 10 ore prima, ma ce l'ha. Che anche Papa Francesco se n'è accorto. Io voglio che tutte le parrocchie accolgano almeno 2 professoresse del latino. Come amo Giovanni. Come amo Papa Francesco. Io amo quell'uomo. Renzi non fa in tempo ad annunciare che abolisce l'IMU, che subito lui dice che vuole pagarla immediatamente. È anche spiritoso. Anche il Jobs Act. Appena Renzi è arrivato a New York, ha subito creato un nuovo posto di lavoro. Ha convinto la Pennetta a licenziarsi da tennista. Che momentone per Renzi, giovane. Beh, dai, scusa, è così, era per il Jobs Act. Noi abbiamo detto fa bene Renzi, non fa bene, era solo per il Jobs Act. No, è anche un po' per il finale della storia. Che bello. Tra poco ne parleremo con una persona che l'ha vissuta in prima persona. Ma a proposito, tornando a Renzi, c'è qualcuno che si è arrabbiato perché non è andato. Ma tutta per questa storia. Ma per l'aereo o perché non è andato alla Fiera del Levante? No, perché non è andato alla Fiera del Levante, un po' anche per l'aereo. No, ma lui ha detto che tanto la Fiera del Levante c'è tutti gli anni, l'altra cosa non c'è tutti gli anni. Però a Bari invece... si sono arrabbiati. E chi lo volevano tutti. Barese per eccellenza, il nostro il governatore Emiliano. Pinuccio. Ecco, che avrà ospitato a proposito di telefonato star di Pinuccio, ha telefonato a Renzi e gli ha detto allora ascoltiamo la telefonata della web star Pinuccio a Renzi. Pronto? Casa Renzi? C'è Matteo? Pinuccio sono. Ma è cretino, Matteo carissimo, beh allora che ci vediamo a Bari? Come non vieni più? Alla fine delle avanti non vieni più. E perché? Devi andare a New York a vedere la finale di tennis. Ho capito che sono italiane, pugliesi tutte e due. Ok, beh, però mi potevi avvisare prima, mocca a te, ho fatto preparare patatrice e cozze, le orecchiette con le cibi di rape, le seppini piene, mia suocera è stato un mese a cucinare, mo chi se la sente, quella ti bombarda l'aereo nuovo che ti sei fatto. Vabbè, va, cioè ci stai trattando proprio così. Avvisa la prossima volta che sta male il giorno stesso, soprattutto al sud che noi prepariamo tutte le cose da mangiare. Va bene, mi raccomando, vola sereno. Beh, vola sereno, ma, è sì, bellissimo. Sembra lo slogan del nuovo Air Force. Questa cosa sì, dell'aereo sta prendendo quota, come sì, dibattito. Beh, il doppio senso. Sarà due mesi che discutiamo dell'aereo. Sembra una cosa che ha preso proprio. Boh, non lo so. Ho visto anche la gabbia. Hanno fatto un servizio tutto sull'aereo. Ha fatto clamore. Prende. C'è un pizzico di invidia sociale, no? C'è perché un anche noi vorremmo muoverci velocemente con l'elicottero, andare a sciare. Non va mai bene niente, perché quello che andava in bicicletta, Marino, insomma, anche lui non è che ma stia ancora, vivendo. Non penso che possa secondo più andare. Secondo me in questo periodo. Ha detto che andava in America per evitare di... Sì. Devo dire che effettivamente in questo periodo nessun mezzo di locomozione porta abbastanza bene. Però a me è piaciuto molto perché giustamente Pinuccio ha poi detto... Poi non poteva avvisare, a parte che secondo me è andato in America anche per il cenone che gli aveva preparato, cioè, la suocera per stare leggero, meglio mangiare un dinner light sull'aereo. Però davvero scusa la povera suocera di Pinuccio che aveva cucinato, no, giustamente, certo, dice poi la Fiera del Levante è una cosa importante, infatti è discusso che fosse giusto o no. Ho visto sempre la gabbia, c'era l'altra sera la gabbia e praticamente c'era un imprenditore che diceva perché quello è marketing. Non ha tutti i torti nel dire che il Presidente del Consiglio lì davanti alle tenniste, certo la bandiera sarebbe stata meglio tenerla. Hai visto? Ma è vero, dai, ma nessuno, poi, ma nessuno non so, non avrà visto. Ma dai, ma fate la foto ufficiale, ma nessuno si è accorto. La mostriamo alla radio, il rosso era dalla parte, diciamo, sbagliata, cioè era ribaltata. Loro tenevano dal loro punto di vista il verde dalla parte giusta, ma però la foto, esatto, anche lì sui social. Sui social vabbè, si discute, invece di articolo 2 della Costituzione si discute l'aereo. Beh, che dire, social a volte. Siamo in Italia. E infatti noi che raccontiamo sempre così quello che succede nel mondo, in Italia, visto attraverso i social, questa settimana non possiamo che parlare tanto di sport. Sì. Perché sono successe cose importanti, insomma, che riguardano... Perché tu volevi parlare di calcio. No. Sì, parleremo forse anche un po' di calcio, chi lo sa, però soprattutto ovviamente di tennis. Sì, ancora, perché le due sono mitiche. Dai, allora sono adesso... mitiche anche fuori dal campo, eh. Sai che la Pennetta va a Tusi che Vales, va dal ospite dalla Maria De Filippi. Pensavo fosse quello della Carrà, non lo fanno più, no? No, quello della Carrà speriamo strano, che quest'anno. Però, così speriamo che come ci dia chiamava? Qualche altro forte. Invece lei va piaciuto. A Tusi che Vales, che è il talent show Canale 5 ha preso una volta abbandonato Italia's Got Talent. Cosa deve fare la Pennetta? Non so, vedremo stasera. Fa il giudice? No, è ospite. Non lo so, vedremo stasera. Questa sera guarderemo un po' di Tusi che Vales. Secondo me sì. Allora, ci ritroviamo tra poco. Sì, perché c'è il traffico del villaggio. Traffico del villaggio nel sabato pomeriggio e ci ritroviamo tra pochissimo e davvero allora parliamo di tennis. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta... YouTube. Rieccoci insieme, eccoci. Daniele, qui siamo magici perché tu hai detto il servizio della gabbia sull'aereo di Renzi. L'abbiamo trovato. Ma dai! Me l'ero perso l'altra sera. Mitico Christian Goldoni. Sì, l'abbiamo trovato durante la pausa per il traffico e quindi ascoltiamo un po' perché pare che siano andati quando Renzi era a Milano per l'Expo a cercare di fargli una domanda. Sì, a chiedergli la questione dell'aereo, quanto costa. Appassiona tanto gli italiani. Quindi noi ascoltiamo com'è andata la gabbia. Possiamo fare una domanda? Sta entrando il corteo del Presidente del Consiglio, corteo di auto blu. Strette di mano, come al solito, proviamo a fargli una domanda. Presidente, permette una domanda? Presidente, ci risponde a una domanda? No. Renzi, come è noto, ama i bagni di folla con strette di mano e selfie, ma molto meno le domande. Siamo a Milano ad Expo, ad un'iniziativa di Coldiretti in cui è intervenuto il Presidente del Consiglio, ed ecco come le sue guardie del corpo ci hanno mandato via. Scusi, deve stare là con gli altri giornalisti. Presidente? Hai capito lei? Sente l'italiano? Deve sì, stare lì insieme agli altri giornalisti. Mi dispiace. Io sono qui, non sto superando il vostro limite. No, deve stare insieme agli altri suoi colleghi. Pian. Non c'è alcun bisogno che fate così. La sto accompagnando. Sì, no, però non mi spingete. A Renzi avremmo voluto chiedere se era proprio il caso di spendere 150.000 euro di soldi pubblici per il volo di Stato che sabato scorso lo ha portato da Roma a New York per partecipare alla finale degli US Open, un torneo di tennis. Ecco come sono andati i fatti. Tecnica giornalistica e in particolare televisiva molto molto in chiara, e molto anche in molto voga, cioè andare, a me non piace. No, neanche a me, perché sai che non è il momento, non è il luogo, non no, è ma tu ti vuoi fai che dire ti di no? No. Vuoi che ti dica di no? Perché è certo, perché così il servizio funziona di più. Certo. La non intervista non data dal cattivone, che in questo caso era Renzi, ma in altri casi possono sì, può essere, non lo fanno con tutti. Io ho qualche dubbio che sia, però non va, lo so, va molto bene, va molto. In ogni caso, molto criticato per questa storia dell'aereo, ha risposto Renzi. Ecco, li abbiamo fatti tutti i talk show, povero Ballarò. Dai, facciamo una puntata tutta intera. Sua, anzi faccio già l'appello a Massimo Giannini, che bell'uomo. Ce lo portero. Ma tutti dite così. Che sai bell'uomo. Che quando Massimo ero a Roma, te sì, lo giuro, sì, io mi abitavo a Roma, no? Ti mi dicevano sul taxi. Sei una crasi no, tra Jude Law e Massimo no, Giannini. No, io mi sedevo sul taxi e il tassista mi faceva, ma come va a Repubblica? Dico, perché? Ma lei non è Massimo Giannini? Ti giuro! Veramente. Vabbè, ma perché sei invecchiato così male allora tu lui, mentre no? Lui che ha 10 anni forse, vabbè, no, 5 in più. Senti, non lo so. Mamma andiamo, mia, andiamo avanti, andiamo allora avanti. Ha risposto sull'aereo di Stato e ha risposto ospite di Lilli Gruber a 8:30. Sentiamo cosa ha detto Matteo Renzi. Noi stiamo facendo i tagli sulla spesa pubblica perché è giusto farli, ma l'idea che il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato non si muovano con i voli di Stato appartiene a una dinamica, come dire, populista che rispetto. Non c'entra una polemica, come non c'entra dire, niente, cioè alla fine c'hai la pennetta contro la Vinci in finale e stai a discutere con rancore, ah beh però la politica. E beh, insomma, questa poi sull'aereo lasciamo libero di pensare ognuno come vuole, perché insomma, chi lo sa, ognuno non è libero di pensare. Nel resto del mondo, insomma, Grillo ha criticato molto, Grillo sì, è stato a sua volta criticato molto questa settimana in rete perché si è paragonato a chi? A Mandelea Pertini per essere stato, sì, è vero, è stato schiscio, andrò in prigione come Mandelea Pertini. Anche lui è tutti understatement, è sì, cominciato sì, nel segno dell'understatement questo sabato, questo autunno. Parliamo di sport. Abbiamo cominciato a parlare di politica grazie al tennis. Soprattutto il tennis sta riprendendo alla grande. Il tennis ci sta dando un po' di gioia di essere italiani. Sì, sì, sì, sì, sì. Beh, allora, anche un po', insomma, il basket è andata come è andata, però anche il basket. Parleremo un po' anche di basket, però rimaniamo sul tennis. Rimaniamo perché sul tennis. Ci siamo abbandonati sabato scorso. Io ho tifato un po' per la Vinci per simpatia, però sono contento che abbia vinto la pennetta. Poi c'è stato questo finale con l'annuncio. Dai, sentiamoci un pezzetto del finale, sentiamo sì, com'è andata questa finalone. Pennetta vinci pennetta, eccola qua, eccolo qui, Flavia Pennetta ha vinto lo US Open battendo Roberta Vinci 7-6 6-2 dopo un'ora e 35 minuti di gioco. Before I start this tournament like one month ago I take a big decision on my life and this is the way I would like to say goodbye to tennis. Yeah. You don't have to be like this. I'm really happy. I mean, is what all the player think to want to do, going out with this kind of big trophy home and. Allora, lei si è ritirata, ormai lo sappiamo, non è neanche necessario tradurre, appena vinto, ha detto non siate tristi, io sono molto felice, e come ha commentato una mia amica subito su Twitter, dopo che ho googlato Fognini nudo, ecco, lo sapevo che arrivavi al fidanzato. Io ho capito che arrivavi al fidanzato. Senti, fa benissimo. Viva Flavia. Hai visto Flavia. Che gli ha dato il 5 Fognini? Bello, romantico. Però secondo me qualcuno lo sapeva che avrebbe fatto questo annuncio. Intanto perché la Vinci nella sua intervista già ha detto ci vediamo l'anno prossimo. Quindi sì, io ci sarò e un po' sorrideva. Sì. E anche nella telecronaca secondo me qualcuno lo sapeva. Lo chiediamo a chi ha fatto, chi c'era? Ma lo chiediamo a chi c'era? Buonasera Barbara Rossi, Eurosport. Barbara, buonasera. Buonasera a voi. Allora, complimenti per una telecronaca è proprio tecnicamente perfetta e anche giusta. Bello, Barbara. Ti ha colto di sorpresa questa cosa o avevi il sentore? No, avevo il sentore per quanto riguarda la fine stagione. Per quello che ha detto lei subito dopo la partita non sapevo nulla, infatti io mi sono commossa, mi sono fermata e mi sono venuti due lacrimoni. Com'è commentare quando tu conosci bene le giocatrici? Perché immagino che tu le conosca da qualche annetto. Io le conosco da quando era bambina, soprattutto perché Flavia l'ha allenata per 4 anni, sì. 18-21 anni, e Roberta l'ho seguita quando proprio era giovane nei tornei, quindi le conosco proprio da bambina. Eppure loro si conoscono tra di loro. Certo, e avete visto cosa è successo alla fine, sì. L'abbraccio che è stata la cosa più commovente. Anzi, facciamo una cosa Barbara, ascoltiamoci quello che è successo alla fine e così poi ti chiediamo cosa hai provato. It's also nice to play with a friend of mine. Roberta play unbelievable today. She has two incredible week. Yeah, it's true. And I mean, so this is mine. I play good, no? No? Allora, lei aveva in mano la pennetta, in mano l'assegno e dopo aver detto Vinci. È stata proprio brava, è stata proprio brava, allora la Vinci ha detto allora questo è mio perché ho giocato bene anch'io. Sì, sì. Beh, carine. Cosa hai pensato e cosa hai provato, Barbara? Ecco. Ho pensato che Roberta è una grandissima signora perché ha perso con il sorriso, è stata molto simpatica, quando ha finito Flavia è andata di fianco a lei, sono state lì a parlare, tra l'altro Flavia ha raccontato del fatto che lei avrebbe smesso proprio in quel momento, quindi è stata una cosa meravigliosa e sembrava davvero di seguire un torneo giovanile e invece era uno slam, quindi vedere due ragazze normali che sono cresciute con un grande sogno ma come persone normali, non come atlete già alte, potenti come potevano essere la Sharapova o la Williams, che arriva a un risultato del genere, secondo me è un risultato meraviglioso per tutti e dimostra che chi ha talento può aspirare a una cosa così grande. C'è una cosa molto bella che ha twittato BBC Sport pochi secondi dopo. Io ero ipnotizzata davanti alla TV e intanto compulsavo Twitter con mezzo occhio. Ma dai. Guarda, no, allora sul tennis proprio non mi trovo impreparata. Sul tennis sono molto preparata, anche se sono rimasta per molti versi al tennis degli anni Ottanta. Mm-hmm. BBC Sports ha twittato: è la giocatrice più anziana ad aver mai vinto un torneo dello Slam. Questo significa che non dovete mai abbandonare i vostri sogni. A me è piaciuta tanto questa cosa, è bellissima. Esatto, perché molte persone nelle difficoltà abbandonano. Tra l'altro entrambe hanno avuto durante la loro carriera momenti difficili. Mm-hmm. Flavia ha avuto problemi di cuore, poi problemi a un polso, è stata operata, quindi ha dovuto ricominciare la carriera 2 o 3 volte. Quindi insomma è difficile dire cosa faccio, passano gli anni, vado avanti, ci provo ancora. Ora, la stessa cosa è successa a Roberta, una volta addirittura ha smesso di giocare e poi ha ricominciato, ha avuto problemi alla spalla e ha detto cosa faccio, ormai comincio ad avere la mia età, ci riprovo ancora, e questa è la dimostrazione che se uno continua può veramente raggiungere un risultato strabiliante, impensabile forse un annetto fa. Bello, mi piace questo commento. Ci che provo è da ricomincio. È adesso. Vero, mi piace perché sia da commentatrice che da allenatrice. Certo, mi piace questo. Io vi devo chiedere solo un attimo di pausa perché abbiamo una brevissima pausa. Però ancora con Barbara Rossi ti rubiamo ancora qualche secondo. Perché io tennista, ho una domanda, allenatrice, una commentatrice di Eurosport. Allora, lasciamo gli ascoltatori con la curiosità di Daniele Bellasio a tra qualche istante. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... RadioTube. E rieccoci insieme a RadioTube. Non lo diciamo da tanto, l'imperdibile, l'imperdibile, l'imperdibilissimo della settimana tra TV, web TV, social TV. Lo dicevamo l'anno scorso, due anni fa, basta. Siamo è passato di moda. Et Marta Cagnola, et Di Bellasio. Hashtag cancelletto RadioTube. Ci siamo lasciati prima della pausa. Bene, sì, mi sono anche un po' emozionata con questa bella storia di tennis. Stiamo parlando ovviamente ancora di Vinci, Pennetta, Vinci, US Open. E sono molto contenta perché insieme a noi al telefono c'è Barbara Rossi, commentatrice di Eurosport. Ancora buonasera Barbara. Buonasera a voi. Peraltro, appunto, lo diciamo, Barbara conosce le due ragazze da tanti anni e hai anche allenato Flavia, quindi insomma la conosci da davvero tanto tempo. Daniele, allora io ho due curiosità, una da tennista della domenica e una da cresciuto con il tennis commentato un po' di anni fa. La prima, Barbara, nel primo set la Vinci sembrava più sicura di sé e la Pennetta più nervosa, poi ha vinto facile nel secondo set la Pennetta. Cosa è successo da tennista? Allora, intanto diciamo che il primo set ha un po' messo il sigillo sulla partita. Insomma, chiunque avesse vinto il primo set forse avrebbe chiuso la partita. La Vinci nel secondo set era molto stanca, mentre la Pennetta all'inizio era veramente nervosa, ha sbagliato tantissimi rovesci lungo linea che lo gioca quasi a occhi chiusi, è il suo colpo migliore. Però poi si è sciolta, era quella che aveva molta più sicurezza nel gioco da fondo, nella manovra, ha servito meglio, mentre la Vinci piano piano ha perso tutte le energie. Forse per Roberta sarebbe stato meglio avere un giorno di riposo dopo una partita così emozionante come quella giocata con la Williams. Ha dato tutto quello che aveva e alla fine invece Flavia è stata forse più lucida anche nei momenti chiave, soprattutto nel tiebreak del primo set. Ma le telecronache di Clerici Tommasi, meravigliose, tu le ascoltavi, le vedevi? Assolutamente. Ti hanno insegnato qualcosa? Tantissimo, tantissimo, sono stati maestri per tutti noi, inimitabili, penso, veramente inimitabili. Ci hanno aiutato a capire come si deve leggere una partita con le statistiche di Tommasi, con la freschezza e la fantasia di Clerici, quindi penso che siano inimitabili. Io vorrei aggiungere anche Ubaldo Scanagatta, grande sparring partner, e la leggendaria Lea Pericoli, che invece commentava a volte con Bisteccone Galeazzi, sì, quella era più l'Italia, vabbè. Salutiamo tutti loro. Tu, che meraviglia, tutti. Ai loro tempi, sì. Però non c'erano i social network, no. Io sono una grande spettatrice di Eurosport, lo confesso, io sono una pazza, e il vostro collega Andrea Campagna lo sa, di snooker. Io mi guardo ore e ore e ore di partite di snooker. È una delle cose che anch'io. Anche tu, fantastico. Cioè, invece per addormentarvi lo fate, dite la verità. No, tu non hai idea. Io adoro Sullivan, è il mio amico. Sullivan, io sì. Sullivan e un po' anche Robertson. Un po' anche Robertson. Io me ne vado in regia. anche se io ero una fan di Davis. Vabbè, insomma, al di là di questo, una cosa molto bella delle telecronache di Eurosport, e soprattutto in uno sport particolare, ad esempio come lo snooker, che è uno sport che ha anche dei tempi molto più lenti, è l'interazione con gli coi telespettatori attraverso i social network, attraverso il soprattutto Twitter. Barbara, tu come la vedi? Come lo vedi questo aspetto? Telecronache, interazione con gli ascoltatori? So che molti ti hanno scritto su Twitter. Tantissime, e trovo una cosa meravigliosa, perché le persone cercano di capire attraverso anche i tuoi commenti con i social che cosa pensi, cosa succederà, le sensazioni dirette con chi lo sta guardando da seduta e chi gioca, perché insomma, noi conosciamo i giocatori ormai da tanti anni, quindi trovo una cosa meravigliosa. I giocatori hanno dovuto imparare a gestire tutta questa notorietà che non c'era tempo fa. Ad esempio ho sentito un'intervista a Lindsay Davenport, che forse voi vi ricordate, è stata numero uno al mondo, adesso sì. È mamma e allena una giocatrice molto forte che è Madison Keys, che ha detto che proprio questi social network per i giocatori a volte sono un problema, perché tutti si sentono in dovere di commentare o dire cose sia positive che negative nei confronti del giocatore. Quindi devi anche capire bene questo mondo e devi cercare di insomma far conoscere agli spettatori quello che c'è in campo, quello che succede, perché uno dice: ah, è facile, come mai hai sbagliato? Che brutta cosa, ma come si fa a sbagliare? Invece nel campo ci sono delle sensazioni, degli aspetti anche mentali che uno deve anche tenere presente, e quindi magari a noi che commentiamo, per noi è importante far capire questi aspetti anche al telespettatore che magari non conosce completamente il tennis. Io volevo salutarti, Barbara, però facendoti sentire una cosa che è successa l'altra sera. La Roma ha giocato, ce lo ricordiamo, la Roma ha fatto una prestazione storica pareggiando col Barcellona. Nel momento del gol di Florenzi su Sport Mediaset è successo questo. Ora Florenzi avanza bello di nonna, superata la linea centrale del campo, ecco il lancio, attenzione! Questo bello de nonna di Carlo Zampa mi è piaciuto tantissimo. Bello Daniele de nonna, con la faccia sentita. No, così no. Ma dopo dice bello de nonna o de Roma? Non lo so, a me se mi raccontasse dire bello de nonna, ma è impazzito. Bello de nonna, sì. Bello de nonna, Barbara, una telecronaca del genere, diciamo che a te non può capitare, diciamo, non lo so. Ma non è detto. Ma non lo so. No, può essere, tutto può essere, perché alla fine quando vieni coinvolta poi dopo succede di tutto, quindi è bella questa cosa e coinvolgente. Penso che sia lo stesso pensiero di molti telespettatori. Beh, perché poi lui era molto legato alla nonna, se l'era abbracciata l'anno scorso, quindi bello. Allo stadio. Barbara, bravo, che Florenzi, meraviglia. Vabbè, grande. La prima volta che sentiamo Barbara su Eurosport urlare bello de nonna. Sì, magari una finale. Bella. Che meraviglia. Bello, no, vorrebbe dire che un italiano è arrivato alle stesse cose che sono riuscito a fare. Bello, le ragazze. Bello, che ma meraviglia. Non è possibile. Non tipo, è impossibile. Tipo chi? C'è ancora. Ci sono ancora delle ragazze che possono ancora ottenere dei risultati e anche ragazzi. Chi teniamo d'occhio? I maschietti che deludono anche un po'. Chi dobbiamo tenere d'occhio, Barbara, secondo te? Ma tutti, perché Sara Errani è andata lì vicino a vincere uno slam, perché ha fatto due finali a Roland Garros, quindi perché no? Lei forse la prossima. Abbiamo Camilla Giorgi che deve ancora un po' maturare, ma ha delle ottime qualità ed è già una giocatrice che insomma ha fatto sognare battendo gente molto forte. E poi abbiamo Fognini e Seppi. Fognini secondo me piano piano arriverà anche a darci delle gioie, ce ne dà a singhiozzo, diciamo così, deve essere solo un po' più continuo, ma secondo me arriverà anche lui e deve cominciare anche lui a indossare i pantaloni in casa e in famiglia. Ma chi perché te l'ha detto? Siamo lenti nel maturare, non so perché, è legato al nostro modo di essere italiani. Alcuni maturano prima, noi invece siamo lenti, però l'importante è continuare a provarci, perché fantastico. Prima o poi arriva il momento per tutti. Guarda, che bello. Ciao, Barbara, averti avuto ospite. Barbara Rossi, tennista, allenatrice e ora commentatrice di Eurosport. Grazie. Ciao. Per essere stata con noi. Grazie a voi. Che bello. Però parliamo ancora di... No, voglio di ancora un pochino, hashtag qualche minuto. Radio Sport. No, Radio Tube Sport. Ma se sei tu ma che sei benissimo, il fan dello sport. Poi però essendo un grande sportivo. Vorrei farti... Vorrei un grande atleta. Sì. Vorrei farti sentire ancora una cosa della Roma, ma non... Della Roma. Sì, sì. Perché povero mi è piaciuto Cristian Goldoni, che è un della Lazio sta lì, sta soffrendo un po'. Sì, sta un filino soffrendo. È una cosa bellissima, mi è piaciuta sempre a Sport Mediaset, perché sappiamo che adesso sono loro che hanno i diritti... Per la Champions, mentre quindi tutto ovvio il campionato è di... Ecco, come ha commentato il papà di Florenzi, perché come è bello de nonna. Quindi mi hanno detto com'è, com'è sua moglie? Senti, sua mamma, nonna. No, ma senti il babbo di Florenzi, sentilo qua. Tutto credevo quello che uscisse una cosa del genere, che lui è un ragazzo umile, perché se come se alza un palmo io gli taglio subito la capoccia, sul primo io che... Complimento che io faccio sempre, Somaro. Pensa che mi avevano dato per morto ieri, perché mi sono cascato i occhiali. Mi ero inchinato e tutta la gente che mi veniva a prendere. Oddio, Gigi si sente male. E ora Florenzi avanza bello di nonna, superata la necessità del campo, ecco il lancio. Attenzione! Beh, quanto ti è piaciuto! Ma perché Somaro? Ma vabbè, deve essere un modo simpatico. Che dice, il complimento che bello vi faccio è Somaro. Somaro. Fantastico. No, deve essere sì, un modo per dire, come si dice, testone. Non so, esatto, come si dice, esatto. non lo so. Però carina, carina. Gran piaciuta. Gol comunque. No, infatti. No, perché in tutto ciò non hai mai detto che il gol è un gran gol. Infatti è un gran gol dello stupore. Però la telecronaca prevale alla radio. Ci scusiamo con Florenzi, poterlo mostrare. Ma Daniele, il basket, una parolina sul basket te la devo concedere. Io invece di basket non so niente, però tu invece che lo sono crollati nei tempi supplementari dal punto di vista fisico. Gli altri erano veramente dei manzi, si può dire. Si dice ancora veramente atleticamente proprio tosti. Però il Gallo, il Mago sono stati bravi. Comunque insomma, sono andati abbastanza avanti. Vabbè ragazzi, però non l'hanno presa tutti benissimo. Io ho letto nei social network molta concitazione, no, e molta delusione. Anche perché gente abituata a giocare nell'NBA ovviamente arriva all'europeo e giocare dal quinto posto in giù non va bene. Vabbè, lo sentiamo un filino della delusione di Gallinari, sì, eccolo qua, sentiamolo. Sono rotto le balle di perdere, questa qua era un'occasione della Madonna per noi. Non l'abbiamo sfruttata, e quindi siccome non si giocano gli europei tutti gli anni e soprattutto gli anni vanno avanti, non è che non abbiamo nessuno di noi a più 18-20 anni, quindi insomma gli anni passano, questa era un'occasione. Beh, insomma, delusione. È il linguaggio. Se di noi gli insegni un po' delle tecniche interiste per sopravvivere. Per sopravvivere, però non la deve mettere sull'età. Può ancora vincere un sacco, dai. Dai, va benissimo. Abbiamo parlato di sport. Adesso abbiamo un po' di video abbiamo un po' di video che hanno fatto così agitare piacevolmente la rete. Però dopo il traffico, anche un po' piangere. Sì, anche un po' piangere. Bellissimi. Traffico. Radio Tube. E come passa veloce il tempo quando ci si diverte nella terza ora di Radio Tube, che è l'ora più bella ora del sabato del villaggio, che si chiama Radio Tube ed è l'ora più bella del sabato pomeriggio perché è l'ultima per te dopo tre, finalmente. Perché la più vai a casa a casa a riposarmi. Allora, in questo blocco guardiamo alla radio, scovato in rete delle cose divertenti e delle cose commoventi. Allora, la prima me l'ha segnalata Simone Spezia. Oh, che salutiamo, Simone Spezia, che salutiamo. Bellissima trasmissione estiva sui robot. Sì, appena sono arrivata in radio. Detto, guarda qua. È arrivato, no, vieni a vedere cosa questo ha trovato. Per voi. Cosa ha trovato Stefano Carrer da Tokyo sul sito del Sole 24 Ore. Certo. Allora, grande manifestazione di studenti in Giappone contro le nuove leggi sulla difesa del governo Abe. Ma come hanno manifestato questi giovani? Perché il governo Abe ha deciso, diciamo, di riprendere una difesa un po' più da paese, insomma, è passata la seconda guerra mondiale, tutta la seconda parte, anche la Germania ha vissuto nel corso degli ultimi anni una trasformazione simile. E come hanno protestato i modernissimi, avantissimi giovani giapponesi, cantando cosa? Non lo sai? In giapponese, immagino. Senti cosa cantavano. In giapponese. Che sarà in giapponese, ma bellissima. È uno scherzo che ci ha fatto Spezia. Bisogna chiedere a Stefano Carrer, l'ha fatto lui. Ma è bellissimo. È bellissimo. Ma secondo te come l'hanno imparata? C'è proprio il testo in giapponese, quindi secondo me in quegli anni lì c'era qualche cantante giapponese. Ma perché magari giapponese. Sai cosa? Nei karaoke secondo me va molto. Il karaoke l'hanno inventato loro. Anche che sarà. Ma era di Ricchi e Poveri, certo, no? Ricchi e Poveri e José Feliciano. L'hanno esportato in tutto il mondo. Certo, e quindi loro. Però non era una canzone con il marchio del pacifismo politico. No, era una canzone che parlava dell'addio a un paese che era, se non sbaglio, Cortona. Ah dai. Sì, se non sbaglio era proprio Cortona. Ebbene sì. Allora, questo mi è piaciuto tanto. Un altro video che mi ha fatto venire i lacrimoni. Questo non lo so se l'hai visto. Allora, Stevie Wonder. Sì. Simpaticissimo. Sì. Che partecipa a una trasmissione che si chiama Think It Up. Questo conduttore si chiama James Corden e cosa fa? Invita le persone in macchina e chiacchierano Ah beh sì, lo fa anche in Italia. Ascoltano la radio, c'è stato qualcosa. Sì, però ascoltano la radio, cantano le canzoni, sì. E fanno un viaggio. Una volta c'era Milano-Roma, non so se me lo ricordo. Becky fa la bitacco. Ma sai cosa ha fatto James Corden? No. Siccome ha sua moglie Stevie. Giulia. No, ma fantastico, perché Stevie si è seduto al posto di guida. Vedi che l'ha fatto guidare. Si è seduto al posto di guida e lui faceva finta di essere preoccupato. E Stevie diceva: ma ho la patente, non ti preoccupare, numero grande uno. Stevie. E poi a un certo punto fa: no, l'ho dimenticata a casa. Vabbè, guida e l'altro tu. Perché sì, vabbè, straordinario, un uomo straordinario. E siccome la moglie di questo Corden, Giulia, è una fan di Stevie Wonder. Te vediamolo. La faccio sentire direttamente. Senti questa Giulia, cosa non ha provato con questa telefonata di Stevie Wonder. Are you ready, Giulia? I think so. I just come to say James loves you. I just come to say how much he cares. Cioè, ho chiamato per dirti che James ti chiama, eh? Senti, senti. And he promises to me that he'll let me be on his show for an hour. E mi ha promesso che sarò nella sua trasmissione per un'ora. E lei è svenuta, non si sentiva più. Il conduttore piangeva. Anche il conduttore. Lui piangeva, dai, vabbè, Stevie Wonder che dice: ti ho chiamato per dirti che James ti ama. Sì, no, cioè, ma bellissimo, infatti una stupendo. Una volta sola nella vita. Anche televisivamente avrà reso come beh, cosa, straordinario. Infatti si trova in rete perché ha un sacchissimo di visualizzazioni. A proposito di un sacchissimo di visualizzazioni. Mi piace. Sei più, come dire... più giovanile nel linguaggio. Giovanile, mi stai dando della cariatide. No, rispetto alle altre edizioni di RadioTube dove eri tutto afforbita. Sacchissimo. Non lo so, un sacchissimo. Attimino non credo che mi venga mai fuori. Ma però, sacchissimo. Sì. 7 milioni di visualizzazioni su YouTube per quest'altro video. Allora, ricordi... Cosa? L'ultima puntata della seconda season, stagione di RadioTube in cui ti ho detto questa per me sarà la canzone dell'estate. Che era One Last Time di Ariana Grande. Ariana Grande è un fenomeno per quanto riguarda i ragazzini. È una ragazzetta di quelle che poi hanno fatto un grandissimo successo. È stata ospite di Jimmy Fallon, il grande nuovo conduttore dei late night americani. Sì. E hanno imitato Celine Dion e Sting. Allora, 7 milioni di visualizzazioni su YouTube. Twitter è impazzito, ma anche in Italia tutti l'hanno segnalato, perché se li senti, ma davvero sono Celine Dion e Sting. Ma perché lui canta bene. Ma te li mostro alla radio, senti qua. E ti dirò di più, la canzone. Un po' però. Ma loro non sanno nemmeno che canzone devono cantare, perché praticamente è una sorta di ruota della fortuna in cui appare il titolo di una canzone e un cantante. Quindi se la devono improvvisare al momento. Ah, cioè un karaoke improvvisato. Improvvisato, sì. Canzone estratta. Ma che cantante. Gioco bellissimo. Ma importiamo, anche ma io possiamo e te. Fare io e te. Tu che fai quel mazzone di fiori come Sting. Ma no, posso fare anche canzoni più moderne, tutto Gaber, non lo so, qualcosa di Iannacci. Certo, fantastico, fantastico. Però dai, un momentino ancora di commozione. Vorrei chiedere il primo giorno di scuola. Ah, no, che carino. Tu ti arrabbi sempre quando si parla del primo. Dici basta questi social. Ma che dai, social network tutti con i genitori. Quest'anno che era il primo giorno di scuola di Rocco, ma della seconda elementare non ho detto una parola per paura di essere sgridato da te. Ma dai, cioè, voglio dire, adesso quando noi andavamo a scuola ci dicevano, ci mettevano sulla porta di casa e ci dicevano andate, vai. Sì, ma lì in Brianza, invece a Milano era un po' più un evento. Mi dicevano andate lo stesso. Non abbiamo tutte le foto su spostate il primo giorno di questo scuola. Questo video però è andato fortissimo, è carino. Molto carino. Sono circa 3 milioni di visualizzazioni, più che su YouTube, sui vari canali social, Facebook. È un bellissimo video di Teleton che ha augurato così un buon anno scolastico a tutti i bambini e anche ai genitori. Sarà difficile diventare grande prima che sono le note di A modo mio di Elisa, che è una canzone bellissima. E i protagonisti di questo video di Telethon sono dei bimbi molto carini, Uma che ha 5 anni, Gianmaria che ha 5 anni, Gabriele che ha 7 anni, e sono bimbi che hanno delle malattie molto serie, ma sono dei bimbi che hanno una grandissima gioia di vivere, di andare a scuola. Tanto che arriva primo! Eh sì, perché fanno la gara, l'hashtag è andare lontano, e vanno lontano, e vanno anche veloce. Lontano, e chi ha qualche problema arriva prima a volte. Certo, hai perché visto? C'è più forza, più energia, no, più bello. Voglia, bello, ovviamente, bello, ovviamente guardatelo in rete, piangiucchiare perché fa proprio bello, i bambini bello, danno forza e commozione assieme. Ve ne segnalo anche un altro che è dell'AICEM, Associazione Italiana Cooperazione Europa Mondo, è bellissimo, magari ve lo twitto perché il nostro tempo è scaduto. È bellissimo, magari lo vediamo la prossima puntata. Sì, dai, la prossima puntata lo riprendiamo. Sì, non possiamo svelare troppo perché ha un bel finale. Allora Daniele, vabbè, noi ci rivediamo sabato prossimo. Se mi vuoi. Non lo so, ci penso per tutta la settimana, poi vediamo. Tu citofonami sabato e vedo se ti faccio salire in radio, va bene va così? Bene, al va prossimo bene, sabato ciao. Con RadioTube. Grazie a Cristian Goldoni in redazione, grazie a Roberta Frisani in regia e l'appuntamento al prossimo ciao. Sabato.